A tempo di sport. Il prossimo anno resti, sì. Ah, speriamo. Il calcio non si sa mai, veramente. Io ringrazio all'Inter, al presidente, al mister per volermi l'estate scorso. E sono felice. Poi il prossimo anno vediamo. C'ho due offerte importanti, vediamo. Amala, pazza Inter Amala, è una gioia. Ho avuto una riunione con il presidente, con Branca all'inizio, abbiamo parlato di 3 giocatori, adesso senza Walter dobbiamo parlare da 4 giocatori, perché questa competizione tra giocatori è sempre positiva per una squadra, e se la squadra era forte poteva essere di più. Le altre squadre hanno speso dinero, il presidente ha speso dinero tutti gli anni, io non dico niente di questo, ma ha speso 80 milioni l'anno scorso in 5 giocatori che tutti erano titolari, quest'anno abbiamo speso 0 per un allenatore nuovo. Io ho bisogno di questo supporto, è chiaro che se abbiamo questo supporto la squadra sarà più forte. Senta, le dichiarazioni di Benitez hanno un po' rovinato la festa? No, per il momento no. Sono un po' inadeguate la situazione, ma per il momento no, un interista in questo momento è felice. So. Quindi fondamentalmente si conferma a questo momento l'ipotesi di Benitez? In questo momento io di Benitez non ne parlo. Signore, la storia è questa, insomma. Sempre Giorgio Lucchi in redazione, Valeria Bernardi in regia, 800 24 00 24, il numero verde. In questo montaggio Mourinho che va via con la macchina del Real Madrid dal Bernabeu, non riusciamo a farvelo vedere per radio, ma fa parte di questa storia. Inter che cerca un nuovo allenatore con cui riaprirà, non c'è ancora nulla di ufficiale, ma è ufficioso, lo sappiamo tutti. Io vi faccio sentire intanto al volo in diretta Cavani che sta parlando con Sky. Quando l'arbitro ci diceva, la buttavamo fuori. Questo è Cavani, perché altro che Cine e Panettone, piacerà un mondo a De Laurentiis questo Napoli che anche oggi al 48esimo segna il gol partita, un gol mostruoso di Cavani, 10 centri come di Natale in testa alla classifica cannoniere, il Napoli che batte 1-0 al Lecce, appunto in zona Napoli. Poi a proposito di campionato, che l'Inter inizierà a gennaio con un nuovo allenatore, campionato totalmente riaperto se mai era stato chiuso, e non lo era mai stato. La Lazio e il Napoli fanno ciò che era nei programmi e nei sogni prenatalizi e si portano a 3 lunghezze dal Milan che era perso con la Roma. Quindi la Juventus ci ha provato fino all'ultimo, ha segnato con Quagliarella al 31esimo, ma è stata agguantata in zona Napoli dal Chievo. 48esimo minuto, gol di Pellissier, finisce 1-1 tra Chievo e Juventus. Torreira aveva anche parato un rigore, confermando e avvalorando forse le parole del suo allenatore, di Gigi Del Neri, che dice Buffon dovrà riconquistarsi il posto. Bari-Palermo finisce 1-1, Catania batte 1-0 Brescia con gol del redivivo Maxi Lopez, 0-0 tra Parma e Bologna con il Bologna che ha ufficialmente un nuovo presidente, inchiostrato l'accordo e dunque Zanetti è il nuovo presidente, il nuovo proprietario del Bologna. C'è Del Neri già con Sky, sentiamo cosa dice e poi passiamo subito agli ascoltatori. Certo. Quindi mi sembra che la squadra abbia fatto il suo dovere, e quindi oltre a quello che avete detto voi ci sono anche altre situazioni. La squadra ha lottato, ha preso gol al 92esimo quando pensava di averlo portato a casa, però il calcio è anche così, insomma il calcio è fatto di situazioni favorevoli o meno. Domenica scorsa con la Lazio è toccato a noi, oggi è toccato al Chievo, quindi prendiamo il punto, andiamo a casa, vediamo un po' di passare il Natale sereni in salute. Ecco, Milan 36, Napoli, Lazio 33, Juventus 31, Roma 29, Palermo 27, Inter attualmente a 23 come Sampdoria e Udinese, Chievo, Genoa, Catania 21, Cagliari 20, Fiorentina, Parma 19, Bologna 17, Brescia, Cesena, Lecce 15, Bari 11. Sacco di partite da recuperare, c'è il derby di Genova stasera, però in forse perché nevica fitto su Genova, ci diceva prima il nostro corrispondente appunto da laggiù, e non è così sicuro che si riesca a giocare. Vedremo di darvi notizie più aggiornate più avanti. Intanto ascoltatori, subito Pier da Milano, buonasera. Buonasera, volevo dare una piccola testimonianza e sono d'accordissimo, l'Inter ha bisogno di un allenatore, secondo me, scusate io parlo dal telefonino della macchina, non so se la sento, bene. Sì, la sento. Ha bisogno di un traghettatore per quest'anno, e poi dobbiamo puntare a Guardiola. perché se Guardiola non vince la Champions, non va neanche in finale e non fa niente in campionato, all'Inter ci viene. E se invece Guardiola poi, e se Guardiola invece poi vince qualcosa, comunque firma ad aprile con il Barcellona, che facciamo? Non lo so, questo è un altro discorso che dovrà essere. Però con Benitez è finita qui? Però con Benitez è stato sfortunato, ma non mi sembra un allenatore da Inter. È stato anche un po' maltrattato, non trova? Sì, sicuramente sì. Sì, sono d'accordo, però non riesce a venirne fuori, cioè non è quell'allenatore di carisma che, al quale l'Inter si era abituato. Ma è possibile che l'Inter Mourinho abbia bisogno sempre per forza di un allenatore padrone con il bastone in mano? Penso di sì, perché Moratti è un presidente abbastanza invasivo. Questa è la mia personale opinione. Questa è la sua personale opinione, che raccolgo, giro agli ascoltatori, 800 24 00 24, e giro anche a Paolo Ghisoni, amico e collega di Sky. Ciao Paolo. Sì, buonasera, buonasera. Allora, ogni coppa un allenatore nuovo, record del mondo anche in questo. Intanto un campionato che ovviamente non è mai stato chiuso, che viene riaperto come un fiore dalla Roma, si accodano Napoli e Lazio. Ma voglio rimanere sul tema Inter, su cui sei particolarmente aggiornato. Moratti ha bisogno di un allenatore, padrone, di un allenatore carismatico, di un allenatore forte? Sì, direi che il nostro ascoltatore precedente ha anticipato forse tutti i temi con una piccola aggiunta. La società ha bisogno di un allenatore di questo genere, perché personalmente non ricordo, e girerei questo spunto ad altri ascoltatori, il fatto che si vinca una Champions e il presidente e l'allenatore non rientrino a Milano per festeggiare, così come ieri mi sembra che tutto sommato ancora una volta la festa sia passata in secondo piano per altri fatti, e certo. Quindi anche questa è una situazione che, tanto per rimanere sull'altra sponda di Milano, Milan in un'annata piuttosto delicata dal punto di vista dei risultati di campionato vinse l'Intercontinentale con il Boca Juniors, e mi sembra Galliani disse che noi il nostro obiettivo stagionale lo abbiamo centrato, quindi io questa situazione in casa Inter non l'ho sentita. Aggiungo il fatto che sì, probabilmente Benitez è un ottimo professore, un ottimo insegnante di calcio, ma che l'Inter in questo momento abbia bisogno più di un condottiero alla Mourinho. Detto questo, così come con il Brema, dopo la partita nelle dichiarazioni Benitez mi era parso assolutamente deficitario e oggettivamente anche criticabile, adesso si spiega anche il fatto per cui l'allenatore abbia scelto un basso profilo, cioè sì, da signore qual è, ha accettato, ha incassato, adesso in un momento nel quale della stagione nel quale probabilmente può lasciare da vincitore, perché lui con la squadra al completo è riuscito a vincere la Supercoppa italiana e ha perso quella europea, però con la squadra al completo ha riportato l'Inter sul tetto del mondo, sì. Quindi i risultati tutto sommato gli stanno dando ragione, adesso passa minimamente alla cassa, lo ha fatto proprio impercettibilmente dopo la doppia vittoria col Twente con il Parma, sì. Però adesso è decisamente aspettato momento. Con pazienza di essere in una posizione vantaggiosa, e quindi ha fatto fuoco. Benitez, sì, sì. La sensazione è questa. Senti Paolo, ma com'è questa storia dei giocatori che vanno da soli in palestra eccetera eccetera, cui Benitez ha fatto riferimento? Ma oggettivamente c'è una situazione di prevenzione un po' abbandonata al proprio destino, da quello che si dice, insomma, nel senso che ci sono giocatori che obiettivamente curano senza il supporto dello staff di Benitez una propria situazione personale dal punto di vista appunto dell'integrità fisica, cosa che magari anche con Mourinho succedeva, ma che oggettivamente non è mai venuta fuori. Io sono stato da te una settimana fa e ho puntato forse eccessivamente, ma in maniera conscia, l'indice sul fatto che chi all'Inter si mette un pochettino di traverso, lo staff medico, non va molto lontano. Insomma, era successo con Mancini, sta risuccedendo con Benitez. Qualcuno dice che c'erano giocatori pronti già da un po' di tempo e che obiettivamente non siano stati messi a disposizione, quasi un po' per fare uno sgarro, sì, all'allenatore. L'allenatore questa situazione tutto sommato la gestiva e la voleva, anche perché si aspettava che, facendo giocare Vari Natalino, insomma, Obi, Alibek, potesse anche esserci il pretesto per poi giustificare degli eventuali acquisti a gennaio. Resta il fatto che adesso la rottura è veramente, veramente insanabile, anche perché credo che le dichiarazioni di ieri sera facciano veramente capire che, sì, che Benitez le dimissioni le dava. Sono state dimissioni quelle di Benitez, come erano state anche più esplicite quelle di Mancini dopo Liverpool, perché questi sono i fatti. Benitez in quella maniera ha rimesso il mandato nelle mani di Massimo Moratti, che non accetterà questo ricatto, perché non lo vedi in nessun film Moratti che accetta questa sorta di ricatto, ma anche piuttosto violento da parte di Benitez. Se ti ricordi un Lippi che dopo Reggio Calabria arrivò in conferenza stampa e disse: io se fossi il presidente prenderei l'allenatore e lo caccerei e darei un calcio di dietro a tutti. La storia si ripete. Stessa cosa. Benitez questa volta è stato molto più acuto nel... come dire, farsi licenziare. Cioè, tra l'altro, questa caratteristica dei castigliani che ha raccontato oggi Federico Buffa, che quando sono fidanzati con una donna non la lasciano mai, ma si fanno lasciare. Credo che lui abbia confermato questa meravigliosa... Abbia confermato questa propensione tipica della sua terra. Grazie Paolo, un abbraccio. A voi, ciao. Grazie Paolo Ghisoni, ci fermiamo per il traffico. Subito dopo Alessandro Da Luca, 800 24 00 24, numero verde. Strade in diretta. Code per traffico intenso sull'autosole tra Firenze Certosa e Firenze Scandicci in direzione Bologna. Sempre in Toscana resta chiuso per il ghiaccio il raccordo Firenze-Siena tra Bargino e Firenze Certosa in entrambe le direzioni. Riaperta la Firenze-Pisa-Livorno con limite di velocità a 50 km orari e obbligo di catene a bordo. Parliamo ancora di maltempo: nevica sulla A5 Torino-Aosta tra Morgel, traforo del Monte Bianco, e sulla A32 Torino-Bardonecchia tra Savux e Bardonecchia. Nevischio sulla A7 Milano-Genova tra Serravalle Scrivia e Genova e sulla A10 tra Genova e Savona. Sulla A15 della Cisa sono obbligatorie le catene o i pneumatici da neve tra Fornovo e Pontremoli. Strada in diretta torna tra mezz'ora. A tempo di sport. Alessandro, buonasera. Buonasera a lei, senta. Dica. Senta, io volevo andare un po' controcorrente da questa situazione, perché io da intervista... non penso che esista squadra che abbia cricato tanti allenatori facendo dei frappè incredibili come l'Inter. Mediamente Moratti ha sempre pagato due allenatori l'anno, sì. Non c'è stato allenatore, lei diceva prima ci vuole un allenatore di comando, Guardiola. Moratti ha l'esigenza di si sente più sicuro con un allenatore. Non è un Mourinho però Moratti, Guardiola è un allenatore che è un signore, cioè è un Benitez più giovane, che è preparatissimo per l'amor di Dio, ma non si può mica pretendere che si metta il casco e vada a fare... Da questo punto di vista va bene la suggestione di Guardiola, però mi sembra un po' più attendibile quel signore che era seduto vicino a Moratti, anche lì in maniera non elegantissima secondo me nei confronti di questa squadra e dell'allenatore, ma dopo le voci che si sono sparse, quindi non è stata una grande idea. Magari però Benitez... Non penso che il problema sia l'allenatore, ecco. No! Io penso, cioè, una società quando va ad esonerare allenatori tipo Mancini, Cooper, Olson c'è stato due volte, Lucescu, Lippi, cioè si sta parlando di una quantità di allenatori impressionanti, quindi io non penso sia un problema prettamente di allenatore, penso che sia un problema di una società debole che ha bisogno di un allenatore forte. Cioè, al Milan tutto sommato, io sono interista, ma sono più signori da questo punto di vista, lasciano vivere, lasciano giocare. È un ambiente certamente un po' meno umorale, un po' meno isterico, se mi passa il termine, di quello nerazzurro. E Benitez, dico, è un ottimo allenatore nel posto nel momento sbagliato, perché non sembra uno in grado di... Ha preso in mano una squadra spremuta, una squadra che è uscita da due anni di settarismo duro con Mourinho, e a me fa venire in mente questa situazione, questa squadra fa venire in mente il Milan dell'89, quando uscì da una situazione simile con Sacchi e venne presa in mano da Fabio Capello. Guardate un po' il caso, se è un caso. Luca da Torino, buonasera. Sì, buonasera. Lei che ne pensa? Ma io penso che sì, mi dispiacerebbe molto, perché poi non credo ai cambi in corsa, ma a livello di tutti gli sport di squadra non mi piace, cioè bisogna iniziare una stagione con una persona, con una squadra, con un gruppo, e continuare fino alla fine. Dopo i cambiamenti in corsa nello sport, come neanche nella vita così sociale, non vedo dei gran guadagni. Più che altro, ecco, penso che l'altra parte di Milano si è un po' dispiaciuto perché avevano già programmato una certa festa ieri sera. Sì. E poi rispondendo al signor Galliani, che lui dice che non, la società non tratta mai i giocatori sotto contratto, questo l'anno scorso riferimento a Pandev, dico da che bocca insomma. Sì, e quindi questo io penso che comunque l'Inter è, ecco, una cosa penso che voglia fare è fare come vediamo tipo Milan, pensare solo alle coppe europee. Sì, o no, ma può pensare alle coppe europee, un campionato che ormai insomma la vede piuttosto lontana, anche se abbastanza un'illusione ottica con tutte le partite che si sono da recuperare, ma soprattutto si tratta di capire che cosa accadrà adesso, chi sarà l'allenatore che affronterà sulla panchina dell'Inter, se con un traghetto, se con una nave un po' più stabile il mare del 2011. Proprio per questo oggi è l'occasione giusta per fare due chiacchiere con un luminare del settore, Franco Arturi, vice direttore e anima della Gazzetta dello Sport. Ciao direttore. Ciao a tutti, mamma mia, luminare. Ma Moratti tollererà questa sfida aperta di un allenatore in cui non ha mai creduto? Impossibile. Ma io rovescerei un po' l'introduzione. Mi chiedo se Benitez non abbia detto quello che ha detto sapendo già che il suo destino era segnato. Ecco. Ho la mia sensazione, senza saperne più di tanti altri, è piuttosto questa che non l'inverso. Sì, tu dici quindi che questa coppa portata a Milano non avrebbe cambiato la sua sorte, quindi lui ha messo le mani avanti, ha detto mi hanno raccontato delle frottole, non hanno mantenuto le promesse, adesso le mantengono, se ne cerchino un altro. Sì, io penso che possa essere andata così o che possa andare in questa maniera, che c'erano dei segnali in questo senso. Peraltro, al di là dell'uscita un po' intempestiva, credo io, dell'allenatore, ciò che ha detto credo corrisponda a verità. È un fatto cronistico che dopo molti anni, e in particolare dopo l'era Mourinho, molto costosa, il mercato dell'Inter non abbia avuto riscontro rispetto al passato. Quello che è intercorso come promesse fra l'allenatore e il presidente lo sanno soltanto loro due. Da osservatori esterni possiamo invece dire che l'evidenza è che Mourinho ha avuto tutto o molto, sì, e Benitez non ha avuto quasi nulla. Senti direttore, ma non è anche tu la sensazione che Moratti abbia bisogno, forse per sentirsi più sicuro, di un allenatore forte, di una grande personalità in panchina, che Benitez non sia riuscito a conquistare il suo rispetto quasi, e non è stato rispettato a sua volta Benitez, secondo me. Ma io non mi inerpicherei su queste cime. Moratti ha avuto di tutto come allenatore nella sua squadra in numerosi anni, ha avuto allenatori di ogni tipo e ha convissuto con loro a volte per breve tempo, a volte più a lungo, ecco, quindi non credo che i suoi tecnici rispondano a una tipologia. È vero che l'ultimo, Mourinho, è un tipino molto particolare che può aver dato luogo a un innamoramento calcistico, ed è noto che poi gli innamorati più o meno delusi tendono a cercare di nuovo ecco, quelle sensazioni. Questo può esserci, può starci, che Moratti abbia sempre cercato un tipino così, credo di no. Sì. Ricordiamo i Lucescu, gli Hodgson, gli Orrico, all'Inter è arrivato di tutto, insomma, sì, sì, nel senso tipologie di tecnici diversissimi. Però quelli che hanno vinto sono stati quelli di personalità forte, anche Roberto Mancini era uno di quello stampo, di molto diverso da Mourinho, però simile nel grande carattere, nella grande autostima, se vogliamo anche. Invece direttore, non trovi anche tu qualche analogia tra questa Inter comunque e il Milan dell'89, no? Uscito da un periodo di settarismo che era stato quello di Sacchi, come è stato quello di Mourinho per l'Inter, poi quel Milan venne preso da un condottiero come Fabio Capello. A me questa Inter un po' ricorda quel Milan. No, non credo, perché l'Inter di oggi è molto più logora diversi uomini che non il Milan lasciato da Sacchi a Capello, che non a caso riuscì a impostare un quinquennio d'oro per il Milan stesso. Gli ultra trentenni nell'Inter sono tanti, non sono freschissimi, c'è molto logorio, non vedo la stessa, non vedo una grande analogia. L'Inter ha bisogno, se naturalmente intende rimanere ad altissimo livello europeo e di top in Italia, ha bisogno di, non di ritocchi, ma di pesanti interventi sul mercato. Non credo che con Mariga, Biabiani e il Coutinho diciottenne si possa riproporre un Inter campione della Champions. Sicuro. Mentre sto riguardando il gol mostruoso di Cavani, ti rubo per chiudere, prima di salutarti e farti gli auguri, una battuta su questo campionato riaperto come un fiore, ma secondo me mai è stato chiuso, però la Roma che si conferma squadra capace di qualunque cosa, forse l'unica squadra capace di qualunque cosa, che ha vinto ieri sera a San Siro. Napoli e Lazio che si accodano, la Juventus che non ci riesce perché subisce un gol in zona Napoli, ma quello di ieri sera del Milan è soltanto un momento di, cioè un passaggio di vacanze anticipate, o è un segnale secondo te? Episodio o segnale? Non credo che ci si possa costruire una tendenza su una partita, allora bisognerebbe appiccicarci le precedenti 7-8. Vero è che se il Milan dei cosiddetti mediani non corre, non pressa e non conquista la palla nella tre quarti avversaria, poi saltano fuori le lacune tecniche di alcuni giocatori. Il Milan di ieri era un Milan onesto, ma direi onestamente stanco. La Roma ha potuto attendere che cadesse dalla fatica e poi ha infilato il suo gol un po' fortunoso, probabilmente il segno X avrebbe meglio rappresentato la partita, ma si è visto un Milan stanco. Dopo le vacanze credo che si possa proporre o riproporre un altro tipo di Milan. Comunque, che questo campionato fosse chiuso, ma non ci poteva credere nemmeno, ma figurati, il dottor Galliani. cioè, non sarebbe stato chiuso nemmeno se il Milan avesse avuto 15 punti di vantaggio. Non lo dico assolutamente per caso. Insomma, questo è un campionato che andrà avanti a lungo nell'incertezza e non credo che avrà una squadra dominante. E noi ci divertiamo non poco. Tanti auguri, direttore. Grazie, auguri a tutti voi. Buon Natale e buon anno. Grazie a Franco Arturi. Gianni da Parma, e poi ci fermiamo un attimo mentre sta parlando un felicissimo Mazzarri con Sky. Che squadra sempre, si tiene il campo in un certo modo. Guardate, ora le statistiche, c'è il direttore che è bravissimo, però noi nelle ultime gare abbiamo fatto 4 vittorie consecutive, mi sembra tutte per 1-0, no? E sì. Mentre avevamo iniziato, per esempio abbiamo perso a Udine, si facevano processi alla difesa, ci siamo messi lì, abbiamo avuto una settimana, qualche giorno in più per lavorare e ci siamo rimessi da un punto di vista dell'equilibrio a posto, no? Questo vuol dire che c'è una grande disponibilità e tutti credono in quello che fanno. Questo è assolutamente vero. No, ma guardate, al di là delle troppo facili battute, c'è certamente un po' di fortuna in questo trend del Napoli, che riesce spesso nel finale a vincere le sue partite. Però c'è anche tanta convinzione, tanta preparazione. Il Napoli è una squadra che sta molto bene. Il fatto che segna la fine vuol dire che hanno gambe per arrivare lì, secondo me. Gianni da Parma, buonasera. Buonasera, io vorrei parlare un attimo della Juve, però prego. Prima parlavate degli allenatori dell'Inter e sorridevo quando un milanista, se non sbaglio, ha detto che nel Milan la situazione è diversa perché sono sempre stati rispettati gli allenatori. Beh, io so che Ancelotti non è che si è lasciato molto bene, dice qualcuno che dice sempre che bisogna giocare con due punti. E Leonardo anche un po' peggio, se Ancelotti non si è lasciato molto bene, Leonardo anche un po' peggio. Esatto, quindi mi ha fatto sorridere solo, mi sembrava più una battuta che una cosa seria. Comunque, per parlare invece di una cosa che mi sta più a cuore, quando ho visto la partita oggi, è all'85esimo più o meno, tira via Krasic e mette le grottaglie. Io stimo Delleri perché ha dato un gioco, una fisionomia. Oggi però Pelissier ha tirato un tiro da solo, sì, in un mezzo contropiede, 10 contro 11, con un sacco di difensori che non c'erano. Non ho capito perché questo errore così grave a livello proprio tattico. Infatti ho detto eccolo là, quando toglie Krasic, mette, poi ne ha tolto un altro che non ricordo, ha messo un altro centrale o qualcosa del genere, mi ha dato proprio l'idea di, è vero che ci stava lì, però non ha fatto neanche le barricate, lì almeno sì, facciano sì. Le barricate, abbiamo preso il gol all'ultimo secondo, ci sì. Sta, il calcio è questo, esatto, più però che altro sarei lì. Mi è sembrata una stupidata, ecco. Sì, prendere un gol in contropiede, in mezzo contropiede alla fine può esserlo, però insomma si tratta semplicemente di un episodio, il disegno della partita è stato piuttosto chiaro, la Juventus ha provato a tenerla in mano, ha giocato per tanto tempo in inferiorità numerica perché era in 10 contro 11 dal settimo della ripresa, è uscito questo gol episodico che va a controbilanciare quello segnato domenica scorsa contro la Lazio. Secondo me la Juventus rimane sempre una candidata assolutamente credibile a questo titolo e continua a pensarlo in attesa di quel che capiterà sul mercato, perché questa mia convinzione si rafforzerebbe in caso di arrivo di un paio di giocatori di livello, e sono soprattutto in attesa di capire come li ritroveremo questi atleticamente a gennaio. La Juventus rimane assolutamente da corso in questo campionato così strano. Sentiamo dopo questa breve pausa. Voglia di belle foto? Pensi ad una Reflex? Prova a Penna, la fotocamera Olympus a obiettivi intercambiabili di nuova generazione, con la qualità delle professionali, ma compatta e molto facile da usare. Penna ha un'utilissima live guide, molte funzioni creative, riprende anche filmati in HD e ha accessori di design. Penna è garantita dall'esperienza Olympus, sempre all'avanguardia nell'innovazione e in campo fotografico. Fare belle foto non è mai stato così semplice. Scoprila su olympus.it. San Biter invita a godersi l'aperitivo anche a Poker Tassi. Anch'io. Bari. Sia fatta la tua volontà. Cattolica. Alba. San Biter, analcolica emozione. Palleggio frenetico, passaggio corto, palla che schizza a destra, a sinistra, in alto, no, in basso, fallaccio. La palla vola, finta di corpo, all'ala, al petto, magico recupero a centrocampo. L'ha recuperata, ma dove va? Dove va? Credit Reforma, con più di un secolo di esperienza, recupera i tuoi crediti nel mondo con efficacia, velocità e talento. Chiama il numero verde 800 425 325 oppure collegati a creditreforma.it. Quando Credit Reforma entra in azione, non perde mai la palla. Yokohama, pneumatici pensati per chi guida. Vi presenta Tempo in diretta. Previsioni a cura del Centro Epson Meteo. Una buona serata agli ascoltatori di Radio 24. Inizio di settimana con ampie schiarite al nord-ovest e settori alpini, ampie le zone soleggiate anche in Calabria e sulla Sicilia centro-orientale. Nel resto d'Italia la giornata sarà molto nuvolosa ma con pochissimi fenomeni. Da segnalare al mattino residue piogge solo sulle Venezie e in Toscana. Le temperature subiranno un generale rialzo sia nei valori mattutini che pomeridiani. Al nord tuttavia al mattino avremo ancora delle deboli gelate. Nel pomeriggio le massime potranno sfiorare i 20 gradi in Calabria e Sicilia. I venti saranno moderati intorno alle isole e sulla Puglia meridionale. Per maggiori dettagli consultate il sito meteo.it. E per il meteo tutto. Mi regali un barboncino? No, no, no! Mi compri il telefonino? No, no! In un mondo che dice solo no, c'è una carta che ti dice sempre sì. Carta sì. E col programma Io Sì guadagni punti per richiedere fantastici premi. Carta sì. Sì che puoi. Info e dettagli su cartasi.it/sì che puoi. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. C'è un solo artista che mantiene sempre le sue promesse. Bruce Springsteen. The Promise. 21 brani inediti per scoprire il miglior Bruce Springsteen di sempre. Regalati The Promise, l'album più atteso di Bruce Springsteen. Attento, qui spesso c'è un autovelox. Non oggi. Ci sarà traffico in tangenziale. Non ti preoccupare, ho già preso una strada più veloce. Ho bisogno di un caffè. Fra poco c'è una stazione di servizio. Come sai tutte queste cose? Da quando guido col mio nuovo TomTom Go Live 1000 conosco sempre la strada più veloce, perché ricevo aggiornamenti sul traffico ogni 2 minuti. E in più gli avvisi sugli autovelox, le segnalazioni degli altri utenti e grazie a Google l'indirizzo di qualsiasi posto. Nuovo TomTom Go Live 1000. Conosci sempre il tuo percorso. A tempo di sport. Dunque torniamo, 800 24 00 24 per le vostre chiamate, dunque in attesa del derby di Genova di questa sera, e aspettiamo aggiornamenti sulle condizioni meteo per capire se questa partita si giocherà, perché nevicava forte a Genova. Ebbene, il 2010 si chiude con il Milan in testa, ma con Lazio e Napoli che lo tallonano a 3 punti, a 33 contro i 36 dei rossoneri, e la Juventus che di punti ne ha 31 e continua a pensare sia e rimanga comunque una squadra da corsa. A proposito di Lazio, c'è chi scrive: continua a dire che la Lazio chissà quanto dura, poi quando crolla direi che l'avevi previsto. No, io spero che Lazio e Napoli stiano lì davanti, ma spero con tutto il cuore che stiano lì davanti il più possibile, perché è un segnale di, secondo me, di salute tutto sommato del nostro campionato. Credo anche che siano squadre non attrezzate per vincere lo scudetto, per parlarci chiaramente. Oggi la Lazio ha giocato una partita divertentissima contro l'Udinese, zeppa se vogliamo di errori difensivi, una partita molto natalizia. L'Udinese probabilmente non meritava la sconfitta, questa sconfitta è arrivata. Poi nella Lazio c'è Reia che si trova alle prese con la gestione di alcuni malumori di spogliatoio. Oggi Gonzalez, che a 3 minuti alla fine ha rifiutato di entrare, Zarate che esce e fa le facce. Ledesma che aveva fatto qualche polemichetta dopo la partita di Torino con la Juventus. Oggi Rea ha risposto e tra poco lo faccio sentire. Subito però in diretta vi faccio sentire Stefano Pioli, tecnico del Chievo. Dal punto di vista tattico è innegabile che noi siamo più portati a giocare sugli avversari per poi ripartire. Oggi devo dire che la squadra comunque ha interpretato molto bene la partita, e perdere sarebbe stata un'ingiustizia, non solo per il rigore sbagliato a inizio partita noi, ma anche per lo sviluppo totale e completo della partita, dove sicuramente abbiamo creato molto e rischiato non troppo. Così Pioli, allenatore del Chievo. C'è chi scrive 349-238-6666: ma secondo voi, se Mourinho avesse dovuto fare i conti con le assenze di quest'anno e con il post triplete, sarebbe stato capace di fare meglio? Non avremo mai la controprova, ma penso di sì, perché c'era un'idea di squadra, cosa che Benitez non ha mai potuto, sulla quale Benitez non ha mai potuto contare. Era una situazione insomma profondamente diversa. Resta anche da vedere, anche qui non abbiamo nessuna controprova, che con Mourinho ci sarebbe stata questa situazione di infortunati anche gravi. Poi ci sono mille illazioni che abbiamo già fatto, mille voci che dicono di uno certo scollamento tra storie, anche queste nuove, tra settore tecnico e settore medico dell'Inter, di giocatori pronti che però non sono stati messi a disposizione del tecnico, di Snyder che si fa venire il malessere per non giocare in una posizione non gradita nell'intervallo della partita col Brescia. Insomma, mille segnali che ci riportano a Materazzi, a Stankovic di ieri, eccetera eccetera eccetera. Insomma, questa rottura è consumata, è inutile star lì a discutere. Poi discutiamo invece sul fatto che questa situazione è stata gestita nel migliore dei modi, ad esempio dalla società. Insomma, mi sembra che Benitez, ripeto, ieri ha aspettato con pazienza di essere in una posizione di vantaggio, e quindi con molta lucidità ha aperto fuoco in maniera definitiva. Bisogna anche dire che tutto sommato è riuscito a presentare un Inter all'appuntamento più importante di questo inizio di stagione, che è quello che si è consumato ieri, nelle migliori condizioni anche emotive, perché l'Inter non ha avuto un cedimento, una sbavatura, è stata molto lucida, è stata molto abile nel gestire queste due partite che erano estremamente scivolose, al di là dell'ironia che si può fare sul valore degli avversari. Francesco, provincia di Fermo, buonasera. Buonasera, ci siamo già sentiti 2 settimane fa, se non erro. Buonasera. Buonasera. Senta, dunque, io sono in viva voce perché non so se si sente bene. Sì, però... sì, la sento. Benissimo. Dunque, non è corretto, secondo me, sempre dare fuoco a una società che negli ultimi 5 anni ha dominato letteralmente il calcio italiano. Io ritengo che l'Inter di quest'anno sia purtroppo vittima di un tirare le molle, io l'avevo già detto qualche settimana fa. Adesso, fino al 31-12, bisogna soltanto dare a questa società la vittoria, che è quella del mondialito per club. E chi gliela toglie? Senso che, se no, altrimenti facciamo la figura degli interisti che hanno detto, e mi ricordo Mancini all'epoca, che praticamente erano dei tornei scapoli ammogliati. Non è così, calcio africano è cresciuto molto. La Coppa dell'Amicizia aveva detto, esatto. No, ma al di là di questo, è un trofeo simbolicamente molto importante che va a chiudere un ciclo. Ha detto bene Mourinho, che guardi un po', è ricomparso. Sì, ma Mourinho, che è Coppa Intercontinentale. Poi è stata non è colpa di Moratti o dell'Inter, ma non stiamo discutendo il valore di questa coppa, è un trofeo importante, inutile stare, è un trofeo importante perché, come ha detto Mourinho, che è ricomparso per magia alla vigilia di questa partita, è la fine di un cammino lungo 57 partite, ci abbiamo messo 57 partite per arrivare qui, adesso vivo la partita con la mia maglia dell'Inter e voglio che vinciamo questa coppa, è comparso anche Mourinho, guardi un po', e poi... Insomma, non mi sembra il caso di discutere il valore di questo trofeo, che è appunto quello che chiude un circolo. Diciamo emozionare oggi il tifoso italiano, stop, poi sì. Il resto, se la società deciderà di prendere altre decisioni dal punto di vista tecnico, perché sì. La ritengo ancora superiore a tante altre, è ancora in lista per un campionato sì. Dove la vede vincendo le ultime partite che deve recuperare a 7 punti dal Milan, che non è una squadra in difesa eccezionale, Thiago Pina prende un gol, anche se fortunato, ma lo prende. Sì, no, certo Francesco, ma non stiamo discutendo queste cose, io credo, capirà però che non possiamo dire adesso lasciamoli far festa, poi decidano pure quello che vogliono, capirà che è una specie di record del mondo anche questo, no? Ogni allenatore una coppa. Capirà anche che è una situazione molto, molto particolare, molto strana, credo che non abbia tanti riscontri nel calcio contemporaneo, no? La situazione si è venuta a creare. E dopo Madrid, con quello che batte casse in campo con Mourinho che via con la macchina del Real, e dopo Abu Dhabi con Benitez che spara a zero, capirà anche che insomma è difficile dire bene, bravissimi, hanno vinto questa coppa, adesso dal 31 dicembre quello che succede, è una situazione troppo particolare per farla passare in cavalleria, capirà. Carlo da Bologna, buonasera, dica. Il mio intervento voleva essere concentrato un po' su indicatori del calcio italiano, nel senso che da Prandelli che dice non ho più giovani da confermare e da portare in nazionale, fino a un campionato sì combattuto ma livellato decisamente verso il basso, fino a un Inter che sembra un po' l'arena della politica sì. Dove fatto ci sono smentite e controsmentite e soprattutto diciamo che Mourinho era un grosso leadership ma anche un abile comunicatore, nel senso che si è sempre affidato a quei senatori che riportano a Moratti. Quindi era perfetto in quell'arena politica. Assolutamente sì, perché comunque se andiamo a vedere sia Mancini che Mourinho c'era longevità dei senatori, sì, sì. Il clan tra virgolette degli argentini che un po' facevano da padrone all'interno del spogliatoio della società, però se io vado a vedere oggi tra le più grandi società italiane chi abbia lanciato dei giovani di successo, rischiamo veramente di vedere uno zero sulla conta. Sì, e poi soprattutto mi pare che il Palermo, sto vedendo immagini del Palermo, questo è del tutto casuale, mi sembra che il Palermo di giovani in campo ne abbia tanti, Sì, parliamo a livello italiano però, A livello italiano. Io parlo di sport professionistico, ognuno piglia i giocatori che gli servono. Assolutamente. E poi un'ultima considerazione che rispetto a quello che era il calcio italiano 20 anni fa, si rischia oggi anche di avere tra virgolette un rischio di falsità nel campionato italiano, vedi la situazione del Bologna dove inconcepibilmente si dà la possibilità a una persona di andare a rilevare una società gloriosa e poi magari trovarsi, se non ci fosse stato last minute un salvataggio, veramente a falsare tra virgolette anche il campionato stesso. Purtroppo queste cose succedono, lo sa benissimo, siamo da questo punto di vista la Repubblica delle Banane, lo sappiamo bene anche questo, non solo nel calcio ma anche in altri sport. Adesso la situazione del Bologna è stata sistemata e avanti col nuovo proprietario, però purtroppo queste cose succedono, ma d'altra parte guardi, non è che all'estero proprio non ci siano tutti in regola coi conti, non è che all'estero mi sta venendo in mente De Biasi che in Spagna al Levante allenava una squadra che non beccava un quattrino da mesi e mesi, in Inghilterra il sistema scricchiola paurosamente e ne abbiamo anche qui le prove, dunque sì, sono episodi e situazioni che sarebbero da evitare, però è anche questo una faccia di uno sport professionistico che spreme risorse oltre ogni confine, quindi sarebbe un discorso molto lungo e credo anche complicato da affrontare ora e qui. Traffico. Strade in diretta. Toscana per il ghiaccio resta chiuso il raccordo Firenze-Siena tra Bargino e Firenze-Certosa nelle due direzioni. Riaperta la Firenze-Pisa-Livorno con limite di velocità a 50 km orari e obbligo di catene a bordo. Nevica sulla 5 Torino-Osta tra Morgè e il traforo del Monte Bianco e sulla A32 Torino-Bardonecchia tra Savux e Bardonecchia. Nevischio anche in Liguria sulla 7 Milano-Genova tra Serravalle Scrivia e Genova e sulla A12 nella zona di Genova-Nervi. Sulla A15 della Cisa sono invece obbligatorie le catene o i pneumatici da neve tra Fornovo e Pontremoli. Più a sud sulla A3 Salerno-Reggio Calabria soffia vento forte tra Bagnara Calabra e Scilla. Sconsigliato il transito ai telonati, furgonati e caravan. Strada in diretta torna tra mezz'ora. A tempo di sport. Torniamo con De Laurentiis e il suo cinepanettone in maglia bianco-celeste, bianco-azzurra. Quindi quando uno lavora pensa sempre di portare a casa dei risultati, poi il fatto stesso che abbiamo questa filosofia con Mazzarri di guardare partita per partita, è chiaro che non stiamo guardando dove siamo adesso, né stiamo pensando dove staremo alla fine, cerchiamo di lavorare, stiamo già mettendo a punto un acquisto per l'anno prossimo, proprio in queste ore. Fernandez, manca solo la firma. Sappiamo perfettamente che nel mercato di gennaio, come abbiamo sempre detto d'altronde, dovremo rafforzare la difesa, anche se la difesa oggi ha reagito in maniera degna, pur avendo fatto tre cambi. Quindi voglio dire, io sono contentissimo e poi vi ho fatto gli auguri a voi, ma gli auguri li faccio anche ai fedelissimi del San Paolo che ci hanno seguito con questo freddo, sia perché qui siamo abituati al caldo, in questo periodo fa veramente freddo e contro lo Steaua io mi sono preso il raffreddore e quasi una polmonite. E inverno va freddo ed estate fa caldo. Cinepanettoni De Laurentiis. Andiamo subito da Francesco da Genova, che a proposito di clima voglio capire che tempo fa da quelle parti. Buonasera. Sì, buonasera, guardi, io mi trovo lontano dallo stadio, però qui nevica. Che Dio la manda. Nevica che Dio la manda, appunto. Non lo so, qua sono vicino a un campetto e in effetti l'erba non si vede più, non lo so, poi magari a Marassi metteranno dei teloni, non lo so. Bah, oggi ho letto di quello che hanno fatto intanto a Verona, dove il campo era sempre orripilante, ma un po' meno impresentabile rispetto a quello su cui giocò la Roma un paio di settimane fa. È stato in parte rizzollato, era di mille colori, di mille sfumature di verde, e ho letto che sono stati per 60.000 euro sono stati comprati 44 phon giganteschi che sono stati lasciati accesi 24 ore su 24 in questi giorni per non far ghiacciare il campo. Ne inventano una più del demonio. Non so se giocheranno a Genova, ma poi lo proveremo a scoprirlo, perché la partita effettivamente è a rischio. Dica, Francesco. Sì, no, dico, a Genova è difficile che spendano 60.000 euro, il campo ha molte tonalità di marrone, almeno aveva sì, in passato. Sì. Senta, io volevo fare due considerazioni, se mi permette. Ma certo. Ascoltando l'ultimo ascoltatore, io credo che la politica della federazione, della FIGC, stia andando nella direzione giusta, cioè uomini come Baggio, Rivera, credo che abbiano quantomeno individuato il problema e stiano, come dire, iniziando a fare i primi passi per non solo, vediamo. Per il momento io continuo a vederle come nomine, non dico di facciata, sono certamente personaggi giusti, ma voglio vedere, al di là delle copertine dei giornali e delle belle foto, voglio vedere il frutto del lavoro che stanno facendo. Tra un po' sarà il caso anche di fare un check dell'attività svolta da questi, che sono senz'altro personaggi giusti. Bisogna vedere se hanno la possibilità di lavorare concretamente. Beh, spero che glielo diano. Poi, se vediamo un mondo professionistico italiano in generale, il rugby sta diventando, non dico il terzo sport nazionale, ma sta minando, sta togliendo al calcio, sta togliendo alla pallavolo, sta togliendo al ciclismo. Ma non mi sembra mica tanto, Francesco, perché al di là di quelle 6-7 partite che gioca la nazionale, non mi sembra ci sia la fila per entrare delle partite di rugby. Ho letto sulla Gazzetta che ci sono state un mare di abbonamenti per vedere sulle partite, insomma, mi sembra mi sembra un buon movimento. Sì, ecco. Sì. Ma speriamo che lo diventi, speriamo che cresca, speriamo che il rugby italiano diventi un po' più competitivo, perché senza competitività da questo punto di vista non è anche difficile fare cassa, al di là dell'evento rappresentato dalla nazionale, che è più un concerto di rockstar piuttosto che un evento agonistico dove si accetta la sconfitta e si va a vedere uno spettacolo senza grandi contenuti emotivi quasi. Dica. No, io volevo chiedere anche per quanto riguarda il mercato dell'Inter. Io credo che da Mancini in poi l'Inter abbia fatto un salto di qualità, prendendo sì. giocatori mirati in base a una programmazione mirata. Sulla base di un programma ben preciso, sì. Quindi credo che sia giusto continuare in quella falsa regalia. Se poi c'è da cambiare un allenatore in più, un allenatore in meno... Ben venga. Ho capito, però è l'allenatore che normalmente indica la rotta, no? Che dice mi servono questi giocatori, tu credi in allenatore, il progetto c'è, il piano c'è e allora si va. Comprare i giocatori a prescindere dall'allenatore mi sembra un discorso da vecchia Inter. Si tratta di capire se, questo abbiamo già capito, Benitez non è l'uomo giusto, non è l'uomo che fa per Moratti, adesso verrà... non so quando, se oggi, domani o dopo licenziato, perché questo accadrà anche se non c'è alcuna ufficialità e le parole di Moratti le avete sentite, poi ne arriverà un altro e vedremo se sarà una pilota di traghetto o un capitano di vascello. Grazie Francesco e speriamo si giochi sto derby di Genova, che le condizioni lo consentano. D'altra parte in Inghilterra oggi è saltato a Londra Chelsea Manchester United, quindi dovesse saltare anche il derby di Genova, ce ne faremo una ragione, lo vedremo un altro giorno. Andrea Etrari da Verona, dove c'erano i FON. Ciao Andrea. Ciao Carlo. Ma effettivamente tu, sì. Ma tu li hai visti sti FON? Li hai visti questi FON no. giganteschi? No. L'ho letto anch'io, però li hanno messi in cantina prima della partita. Probabilmente. Che il terreno era leggermente migliore di quello contro la Roma, però per dire domani sera si gioca il Verona in prima divisione, quindi non so che campo troverà, qua si gioca tutti i giorni, quindi probabilmente rugby o non rugby la situazione è stata un po' migliorata, ma insomma lontana dall'essere normale. Che Juventus hai visto oggi? Perché prima ho sentito un ascoltatore molto critico nei confronti della gestione del risultato da parte di Del Neri. Ma può aver ragione, secondo me, anche perché possono recriminare entrambe le squadre, secondo me, per la partita di oggi, perché il Chievo in un primo tempo dominato dalla Juve ha sbagliato il rigore e quindi può recriminare per non essere andata in vantaggio. La Juve, una volta in vantaggio, è vero che ha gestito, però ha gestito nel momento in cui è rimasta, o ha cercato di gestire nel momento in cui è rimasta in 10, quindi insomma alla fine può essere che il pareggio accontenti tutti. Non so, la Juve non la penserà così avendolo preso al secondo minuto di recupero. Sì, no, ma Del Neri prima è stato molto sportivo da questo punto di vista, prendiamo e portiamo a casa senza troppe storie. D'altra parte la Juventus allo stesso modo 7 giorni fa aveva vinto la partita contro la Lazio. Il Chievo aveva perso con il Bologna nel recupero. Sì. Vanno e vengono, salvo Napoli che invece arrivano e basta, insomma, questi gol nel finale. E quanto invece ai singoli della Juventus, chi hai visto bene e chi meno bene? Ma insomma Krasic è sempre un giocatore pericoloso, ma gli attaccanti bene in generale, Iaquinta anche lui ha sbagliato mi pare nel secondo tempo la possibilità del raddoppio, lo stesso Quagliarella è stato risolutivo un'altra volta, poi insomma questo giovane che è stato espulso sì, però insomma ha fatto vedere buone cose venendo praticamente esordendo sin dal primo minuto. Sì, questi ragazzini della Juventus li abbiamo intravisti in una partita che non contava nulla in Europa League in settimana, e oggi questo Gian Donato in campo all'inizio si è poi fatto buttare fuori, però è il segno che Del Neri ci crede, è il segno che hanno qualità, e questo è un aspetto piuttosto interessante che va a rispondere anche a quanto hanno detto alcuni ascoltatori di prima. Io ringrazio Andrea Etrari, vi faccio sentire cosa sta dicendo Marotta con Sky. Fattore anche tecnico, nel senso che ci devono essere anche delle disponibilità di mercato che incrementino il livello di qualità a cui facciamo riferimento. Noi lo guardiamo questo mercato con grande attenzione, non è detto che faremo delle operazioni, però se ci saranno delle opportunità le sfrutteremo, perché non pensavamo neanche noi di poter recitare un ruolo così rapidamente dopo che abbiamo cambiato molto. Oggi erano in campo 8 undicesimi nuovi rispetto alla passata stagione, e quindi le difficoltà nel calcio esistono e vanno superate con lentezza. Noi siamo andati, direi, in un rullino di marcia anche molto rapido, grazie anche all'ottimo lavoro di Del Neri. È proprio così, ma questa è una delle chiavi. Io continuo a pensarlo, la Juventus è da corsa. Per essere definitivamente da corsa in questo campionato così strano, senza un padrone, senza una squadra egemone che non è il Milan, e lo sappiamo e l'abbiamo capito, insomma, in un campionato così la Juventus può correre fino in fondo, secondo me, però molto passerà da quel mercato di gennaio, che sono sicuro porterà qualcosa, aggiungerà qualcosa alla squadra di Del Neri. Alessandro da Milano, buonasera. Sì, una buona serata a lei e a tutti i radioascoltatori. Dica. Dunque, io quello che volevo dire è questo: secondo me il campionato italiano di calcio, che sicuramente è difficile, ma è veramente di bassa qualità, di scarsa qualità rispetto a tutti gli altri campionati importanti d'Europa. Questo lo si vede perché io sono milanista, ma quando il Milan riesce ancora ad essere in testa, dopo che ha perso lo scontro diretto con la Roma, con la Juve, ha perso a Cesena, ha pareggiato in casa col Catania è ancora davanti. Ma non sono così d'accordo sul fatto che sia di base. Non so se questo, non sono convinto che questo sia un indice di scarsa qualità, forse il contrario, forse in altri campionati, soprattutto quello tanto osannato campionato spagnolo, in cui la corsa è a due. Chi gioca contro le due concorrenti praticamente fa passerella, va lì, ieri l'Espagnol ne ha presi 5, eccetera eccetera, Real Madrid va a farne 6 in trasferta, insomma mi pare un po' più equilibrato quantomeno il campionato italiano, ma proprio per le ragioni che lei sta dicendo, il Milan che va a perdere a Cesena e la Lazio e il Napoli che si trovano lì dove sono e ci credono. Quindi non sono così convinto che questo equilibrio sia sintomo e sia indice di bassa qualità. A me quasi quasi pare il contrario. Mettiamo le squadre della nostra parte destra di classifica e facciamole giocare con le squadre della parte destra di classifica del campionato spagnolo, che so, e vediamo cosa salta fuori. Insomma, è chiaro che è più divertente magari guardare una partita spagnola, una partita inglese, come è stata, sono un po' tutte come quelle di oggi dell'Olimpico, no? Questo 3-2 pieno di occasioni da gol, ma anche quello, questo essere partite così zeppe di occasioni da rete, siamo sicuri che sia indice di eccelsa qualità e di spettacolo? Non lo so, non ne sono così convinto. 800 24 00 24, vi aspetto dopo il GR, un'altra ora insieme. L'Inter può farlo bene perché la squadra è buona, ma io penso che per essere meglio dobbiamo fare lo che abbiamo promesso all'inizio. Se all'inizio abbiamo parlato di fare il mercato e dopo non l'abbiamo fatto per il bilancio finanziario, non lo so perché, ciao signor, non so perché non l'abbiamo fatto, ma è chiaro che dobbiamo farlo e dobbiamo dare il supporto all'allenatore che lavora al 100% per questa squadra. Quindi fondamentalmente lei non l'aveva mai detto, ma è rimasto deluso del mercato estivo? 100%. Benitez è stato accolto così dopo la vittoria della Coppa, dopo quelle parole pronunciate, dopo lo strappo, e oggi Moratti ha detto non è il caso, ma l'ho fatto sentire prima già diverse volte, oggi non parlo di Benitez, è inopportuno, eccetera eccetera. Certo è inopportuno, su questo discussioni zero, un sacco di messaggi, anche ascoltatori, 800 24 00 24. E per quanto riguarda i messaggi, Massimo da Forlì: ma Benitez non sarebbe dispiaciuto, ma sentite le dichiarazioni, non mi sembra che abbia tanta voglia di rimanere all'Inter. Quindi spero che arrivi Zenga, un matto in una squadra di matti che ha dei tifosi matti. Moratti, per Natale regalaci Zenga che poi ci divertiamo troppo. Questo scrive un nostro ascoltatore tra i moltissimi. Saluto Paolo De Paolo, direttore di Tutto Sport. Grazie direttore. Saluti a tutti voi. Che succede all'Inter? Beh, mi sembra un divorzio ormai conclamato. Le dichiarazioni di Moratti in risposta a quelle di Benitez sono di una solo cautela per la pausa natalizia, ma in questi giorni sicuramente ci sarà una decisione da parte della dirigenza nerazzurra. Devo dire che Benitez ha approfittato dell'unica occasione che gli è capitato per poter dire tutto quello che pensava sin dall'inizio, perché questo è un bubone che evidentemente è esploso dentro di lui e che stava crescendo da tempo. Ha avuto la freddezza di un cecchino, dicevo prima. Esatto. Anche tu hai la sensazione che abbia detto questo perché già sapeva che Moratti comunque l'avrebbe mandato via? Assolutamente sì, cioè le indecisioni di Moratti sulla sua conduzione erano palesi da diverse settimane. L'atteggiamento di Moratti nei suoi confronti ovviamente non era lo stesso che il presidente aveva nei confronti di Mourinho. Poi le denunce che ha fatto Benitez, perché guardate che Benitez ha sparato a zero su tutto, ha sparato zero rinfacciandogli a Moratti il mercato, ma anche contro Mourinho, rinfacciandogli la preparazione di una squadra che a suo parere dice non si allena in palestra da 2 anni. E attenzione che sono poche le squadre di vertice che non si allenano più in palestra, e questo potrebbe essere un motivo di attrito fra un nuovo preparatore e quello vecchio. Uno di questi è appunto l'Inter, e questa è un'accusa che ha dato a Mourinho. Certo che Rafa Benitez Mourinho l'ha patito, perché questa ombra permanente che poi è rispuntata alla vigilia della partita, e guardo la partita con la maglia dell'Inter, lui l'ha patita questa ombra. Ma lui ha patito un qualche cosa che invece doveva assolutamente aver preparato, e mi meraviglio perché lui è uno puntiglioso e uno molto attento, nel senso che valuta tutte le situazioni, quindi sapeva che aveva un predecessore che lo avrebbe sicuramente fatto sfigurare. Quello che non aveva previsto, e che secondo me è il vero dato forte di questa vicenda, è che ha perso di mano lo spogliatoio, cioè la squadra è contro di lui. E questo è il dato vero. La dichiarazione di Materazzi a fine partita è emblematica, che ha detto la squadra, la società è una società gloriosa che sa quello che fa, l'allenatore, quello che ha detto Benitez, non mi interessa. Insomma, e non è il solo, c'è stato, ricordate il dissidio con Mutu, ci sono stati diversi dissidi all'interno della squadra, lo spogliatoio non è con lui. No, certamente questo è un dato di fatto, anche se Moratti ha detto mi sembra che abbia ripreso in mano bene la situazione, non era così. Eppure uno come Benitez l'avrei visto bene, un allenatore che a me piace, nel posto sbagliato certamente, al momento sbagliato certamente, però è uno che avrei visto bene anche sulla panchina della Juventus. Beh, è stato fino a un metro, diciamo, dalla panchina della Juventus. Poi le decisioni prese da Andrea Agnelli girarono per altre scelte, ma l'allenatore era stato bloccato da Blanc. Poi appunto ci fu l'intervento di Agnelli che disse: se prendiamo un allenatore del genere è inutile che prendiamo Marotta, perché un allenatore del genere è un allenatore che può far tutto, può fare anche il manager, ma in questo momento di ricostruzione della Juve, e in questo devo dire mi sento di essere concorde con la decisione, in questo momento, perché la situazione dello spogliatoio della Juve era disastrosa, proprio disastrosa, la squadra non andava ricostruita, e quindi c'era bisogno di un personaggio tipo Marotta che conoscesse bene il calcio italiano e che sapesse mettere mano a una situazione così difficile. Benitez forse non si sarebbe sentito catapultato in una situazione molto molto più complicata rispetto a qualunque previsione potesse fare. Io continuo a pensare, e dopo le parole di Marotta di prima ne sono ancora più convinto, che la Juventus stia fiutando la grande occasione già in questo campionato. Marotta poco fa ha detto non ci aspettavamo di essere così competitivi, adesso guardiamo con attenzione al mercato, perché già quest'anno è possibile vincere lo scudetto. Questo non l'ha detto, però l'ha lasciato chiaramente intendere. Gennaio sarà il mese chiave per il mercato e per capire se questa squadra non pagherà troppo dal punto di vista fisico, perché le squadre del Neri spesso in passato a gennaio hanno pagato molto. Beh, diciamo che per quanto poi abbiano dichiarato che c'è stato un dispiacere per l'uscita dall'Europa League, questo è stato un grosso peso che si sono tolti sia del Neri sia la Juventus stessa, proprio per quel progetto di riedificazione di una squadra e di una mentalità vincente. Del Neri adesso potrà lavorare tranquillamente su un progetto unico che si chiama campionato. Però io ho sentito benissimo sia le parole di Marotta che quelle di Del Neri. Non ci si può più nascondere e bisogna uscire allo scoperto anche sul mercato, perché se è vero che si punta alla ricostruzione di un gruppo giovane, è vero che quest'anno la differenza l'ha fatta il signor Krasic. Cioè, assolutamente, ma la fanno i campioni la differenza, è inutile la nascondersi. La fanno i campioni, quindi va benissimo il progetto di ricostruzione, ma a gennaio non ci si potrà nascondere, perché a gennaio ci sarà la vera differenza fra tutte le grandi squadre che competono per lo scudetto. Bravissimo, bravissimo direttore. Cassano non l'avresti visto lì? L'avrei visto, ma ho parlato, diciamo, sia con i dirigenti della Juve sia con Del Neri, e in qualche modo mi hanno convinto, nel senso che pur non discutendo le qualità di Cassano, ma mettere Cassano in uno spogliatoio con gente di personalità, Del Piero, Melo, insomma, Krasic che adesso sta crescendo, Chiellini, Bonucci, eccetera, poteva essere un po' deflagrante, perché è un giocatore che poi destabilizza, per quanto possa essere per me per esempio un giocatore accettabile, mi piacciono questi giocatori di grande personalità, sì. Però in uno spogliatoio come il Milan può darsi che possa seguire determinate regole. In uno spogliatoio come la Juve, che adesso sta ricostruendo un suo ambiente, poteva essere deflagrante. Per questo credo che ci sia stata una netta bocciatura. Grazie direttore, buon Natale. Grazie a voi, auguri. Grazie davvero. Paolo De Paolo, direttore di Tutto Sport, ci fermiamo un attimo per il traffico, subito dopo ascoltatori 800 24 0024 numero verde. Volevo leggere subito questo messaggio di Maria Rosa da Bologna. Tifosa del Bologna e contenta che questo grande incubo sia finito. Grazie cordata consorte, ringrazio di cuore i giocatori. E qui ha ragione da vendere Maria Rosa per la serietà e la professionalità dimostrate. Traffico. Strade in diretta. Buonasera, in Toscana è chiuso per il ghiaccio il raccordo Siena-Firenze tra Bargino e Firenze-Certosa nelle due direzioni. A Roma rallentamenti sul tratto urbano della A24 a causa di un incidente avvenuto tra Portonaccio e la tangenziale est in direzione di quest'ultima. Nevica al confine con la Francia sia sulla 5 Torino-Aosta che sulla 32 Torino-Bardonecchia. In Liguria nevischia sulla 7 Milano-Genova e sulla 12 Genova-Livorno. Pioggia invece nel Lazio e lungo la 3 Salerno-Reggio Calabria. Il vento è forte tra Bagnara Calabra e Scilla. Il transito qui è sconsigliato ai veicoli telonati, furgonati e caravan. Infine, sulla 15 della Cisa sono obbligatorie le catene a bordo o i pneumatici da neve tra Fornovo e Pontremoli. Ed è tutto, appuntamento tra mezz'ora. Promo 24. Da Poste Italiane nasce Poste Impresa, una rete di uffici dedicati con personale esperto in soluzioni su misura per tutte le esigenze di imprese, professionisti, associazioni e pubblica amministrazione locale. Oltre 500 uffici dedicati esclusivamente alle imprese per offrire servizi di gestione finanziaria, prodotti postali, bancari, assicurativi, di telefonia mobile, servizi online e articoli per l'ufficio. Gli uffici blu di Poste Impresa sono presenti su tutto il territorio nazionale, con personale in grado di fornire informazioni sui servizi per ogni specifico settore di attività. Per informazioni 800 160 000 oppure poste.it/posteimpresa. A tempo di sport. Secondo Giuseppe Benitez ha fatto bene a dire quel che ha detto e a farlo ora anziché prima della Coppa del Mondo. La società Inter ha gestito male dopo Mourinho e anche la cacciata di Orjali in quest'anno è indice rivelatore. Benitez ha taciuto finora senza replicare alle critiche ed è stato un signore. Ora il tappo è saltato, però ripeto, c'è modo e modo, perché secondo me è stato assolutamente intempestivo e molto violento anche nelle dichiarazioni. Si poteva gestire con maggiore signorilità questo distacco, certamente. Era molto stressato ed era molto, vedo che a Genova nevica, che Dio la manda, non so se si gioca su quel campo. Sto vedendo immagini di questa bufera di neve sullo stadio, sopralluoghi eccetera. Al momento si gioca, poi vediamo se verranno prese decisioni differenti. Dicevo, secondo me non ha fatto un granché bene a fare quelle uscite in quel modo, mentre la coppa era ancora lì da sollevare. Certamente è stata una reazione dovuta al fatto che era stato trattato benissimo in questi primi mesi e ultimi mesi, suppongo, della sua avventura interista. Carlo da Genova, buonasera. Sotto la neve? Quasi, abbastanza. Dica. Niente, no, io sto venendo da Milano, sto andando a Genova per il derby, sì. E sono in mezzo alla neve in autostrada, speravo di avere rassicurazioni sul fatto che si giochi o meno. Guardi, le notizie attualmente sono che si giocherà questa partita, le dico che guardando le immagini in diretta dallo stadio viene giù forte, il campo, stanno lavorando su quel campo che però al momento è tutto bianco. Un appunto sull'Inter, ma non sono in grado di godersi una vittoria questa. Bravo, ma non sono in grado di farne una normale? No, a chi troppo e chi niente. E secondo lei Benitez ha fatto bene a fare quelle uscite oppure no? Uomo sotto pressione, uomo nel mirino, fino adesso me ne sono prese tutte io le colpe, adesso basta, mi hanno promesso giocatori non me li hanno dati, questi lavorano in palestra di nascosto, non si fa prevenzione, non li controllo, non ho la situazione in mano al 100%. Avrebbe fatto meglio parlarne prima in società, ma bisogna vedere anche lì come sono i rapporti con la società adesso, probabilmente era... Adesso finiti. L'ultimo momento per far sentire la sua voce ancora da allenatore dell'Inter. Poi questo può Benitez essere. È un grande forte allenatore, almeno io, anche con Liverpool che non era competitivo come Chelsea, Manchester United, e comunque si è giocato allo scudetto sempre, sì, ha sì. vinto quella coppa incredibile contro il Milan, e c'era sì. anche il suo Zambino ovviamente in quella partita. È arrivato in finale un'altra volta, è arrivato in finale di Champions League. Sempre con una squadra che non avrebbe dovuto arrivare, ha battuto eliminato tre volte il Chelsea di Mourinho, sì, sì, sì. sempre con pareggi, 1-1 in casa loro, 0-0, però... Cioè, Mourinho l'ha messo nel sacco tre volte, quindi non è un cretino come allenatore. Non è un cretino assolutamente. Continuo a pensare che sia quello sbagliato al momento, quello giusto al momento sbagliato. La trasmissione che lo dice, non si può che essere d'accordo. Grazie Carlo, buon viaggio. Saluto. Vada piano, perché la situazione meteo mi sembra difficile. Stefano Varese, buonasera. Buonasera, mi sento meno solo perché anch'io sono da Milano verso Genova. E evidentemente se con Carlo a un certo punto si ferma di aspettarmi perché saremo i due. Ma in quanti siete ad andare a vedere? È la malattia ragazzi. Malattia blu cerchiata o bianco blu? Quello che va rosso da Varese a Genova, scusate, ma è un malato genuano, un deficiente, chiamatelo come volete. È un malato genuano, un autolesionista, come voi commentate, e due cosine soltanto. No, me ne dica un'altra, non so se era nelle due cosine che aveva preventivato, ma Cassano al Milan come lo vede? Mi spiace perché adesso avrò uno in meno da insultare, adesso non so più chi prende, ma poi sostanzialmente nella squadra d'altra parte non è che poi ci siano quei personaggi, sì, qualcuno che ha fatto un palombo, ha fatto un'uscita antipatica a suo sì. tempo, non è c'è neanche un personaggio. Sono quasi dire, simpatici, no? Beh no, aspetta, adesso, no piano con le parole. Mi trovo a dover solidarizzare con Garrone che veramente, ma dico sempre scherzando, è chiaro. Allora, due cosine, infatti, penso che poco farà al telefono con il mio amico che nelle alture genovesi non riesce ad andare a vedere la partita. Da ciò nascono un po' due tirate d'orecchie, no? Amichevoli, nel senso, la prima è vero, ce ne faremo una ragione se non si gioca al derby, no? Però è un po' un discorso televisivo, nel senso, quelli 35.000 che stanno provando ad avvicinarsi allo stadio, l'avessero saputo un po' prima, ora sappiamo tutti, qualcuno non si è mai mosso a Genova con la neve, basta una minima pattina e si blocca tutto. Ripeto, a volte ci dimentichiamo del fatto che la gente va anche allo stadio, oltre che vedere la televisione. Questo è sacrosanto. No? In effetti, tutto sommato, è vero che anch'io mi sto dirigendo a vedere la televisione, la partita, perché ormai abitando a Varese riesco giusto a vedere quelle infrasettimanali, magari andare almeno un po' a Valencia, quelle cose lì simpatiche. Però in effetti sul televisivo anch'io. E la seconda tiratina d'orecchia è un po' il rugby. Perché in effetti non forse diamo troppa importanza all'aspetto che la gente vada a vedere la partita, ma in realtà il rugby lo praticano le persone, voglio dire, io ho due bambini, uno di 7 anni e uno di 12, infatti, e grazie a Dio entrambi giocano a rugby. Ma vede, secondo me la vera grande piccola grande rivoluzione che questi anni il rugby ha portato è stata non tanto quella dell'aspetto mediatico quanto quella dei praticanti, perché il vero grande risultato di questa rugby mania è stato quello di incrementare enormemente il numero dei praticanti. E poi soprattutto posso dire, un allenatore in realtà nel rugby, soprattutto a quell'età lì, non è un allenatore, è più un educatore. Sì. Non so se è la stessa cosa, e ho trovato tantissimi ragazzi che giocano con mio figlio che anche per colpa della mole o faceva il pilone o certo non faceva l'attaccante, vengono dal calcio, perché comunque il calcio già da bambino ti mette in panchina, già ti mette fuori squadra. Nel rugby giocano tutti, addirittura in una squadra del nord... dove ha giocato mio figlio negli under 16 c'era un ragazzo down ovviamente in certe condizioni, in certi livelli di handicap, però comunque poteva benissimo giocare a rugby. Ovvio che una cosa così a calcio ce la scordiamo, è una piccola difesa d'ufficio, perché comunque voglio dire la verità, io non sono un sportivo, lo ammetto, sono un tifoso, sono un malato di una squadra che non vincerà mai niente, e anche quindi è anche sintomatico un po' di intelligenza, però comunque a Genova siamo così, sappiamo già che non vinceremo mai niente, però ci andiamo lo stesso. Io fortunatamente abito, non so, un'ultima cosa, a 1,5 km da Milanello e a 15 da Piano Gentile. Allora, sono riuscito a far diventare i miei figli genuani, anche perché, così una ma sul non vinceremo mai niente non sia così pessimista, via. Aspetti un attimo che le devo dare un'informazione di servizio che le interesserà, perché A quanto pare il derby di Genova è stato rinviato. Proviamo a sentire Sky. Il discorso dei teloni, dicono che secondo loro insomma non sarebbe cambiata tanto la situazione anche in presenza dei teloni, perché a quel punto con tutta la neve che è scesa non ci sarebbero state delle grosse difficoltà a togliere i teloni sotto il peso della neve, giusto dare anche insomma la versione della Sampdoria a questo proposito. Dunque direi che è tutto per davvero. Il derby non si gioca, il derby di questa sera è stato rinviato per neve. Dunque, voi tutti che siete in viaggio per Genova, fate uso di questa notizia ufficiale. Aldo da Reggio Emilia non credo sia in viaggio per Genova. No, sono a casa. No, volevo dire che sono contento per Benitez anch'io, come per esempio Giuseppe, che hai chiamato prima. Sì. Perché in questo mondo del calcio, dove chi urla di più, chi fa più il furbo è più ascoltato, sì, c'è stato un uomo che è stato zitto per 4 mesi, nonostante sia stato trattato come è stato trattato, sì, e il fatto che sia sbottato ieri sera dopo la vittoria vuol solo dire che da un mese hanno già preso qualcun altro al suo posto, secondo me. Questo può essere. Ecco, hanno già detto... Per esempio la Gazzetta dello Sport, che non so, su Leonardo per esempio con Berlusconi ha chiamato... È stato più volte detto che si è comportato male Berlusconi con Leonardo, e io sono anche d'accordo con Ancelotti, con gente che però è stata al Milan 8-13 anni e ha avuto molto dal Milan. Moratti è sempre magnanimo e Benitez, secondo la Gazzetta, si autoesonera, è sempre magnanimo quando ha esonerato Zaccheroni, Mancino con le vittorie, ha preso Mourinho spendendo un sacco di soldi, e anche sugli infortuni, cioè dopo 2 anni che non fanno palestra, questa polemica nessuno la coglie, però secondo me Benitez vuol dire qualcosa per questa cosa, cioè 2 anni senza palestra, allenarsi 2 anni senza palestra e adesso tutti vanno in palestra da soli, cosa doveva fare? Che colpa ha Benitez di tutto questo? Ha colpa che non gli hanno fatto mercato? È molto difficile. I giocatori guariscono di colpo per giocare una finale? No, ma più che altro è importante il fatto che si legge chiaramente tra le righe che Benitez non ha più in mano il gruppo dello spogliatoio, né come rapporti personali né evidentemente come metodologia di allenamento. Quello che dico, lei ha ragione sul fatto che si è trattenuto per tutto quel tempo e poi è esploso. Certamente lo schiaffo che ha voluto dare è stato molto forte, considerata la tempistica. Io vorrei parlarne, ed è un grandissimo piacere farlo, con un'icona del nostro sport come Valentina Vezzali. Ciao Valentina, grazie. Buonasera a lei. Come stai? Bene, grazie. Non dirmi che passi Natale sulle pedane, perché non voglio sentirlo. Assolutamente, il Natale è sacro e si passa insieme alla famiglia, bisogna staccare la spina e diciamo rigenerarci un attimino. Sì. E quindi mi sono felicissima. Sì, e di questa storia che Giovanna Trillini torna in pedana, cosa ne pensi? Ma io credo che ognuno di noi debba seguire la propria intuizione, debba fare quello che si sente di fare. Se Giovanna ha preso questa decisione già dallo scorso anno, comunque ha ripreso l'attività agonistica, io credo che faccia bene. Sì, senti Valentina, da interista invece ti chiedo questo Benitez che rovina anche la festa della Coppa del Mondo dopo che Mourinho aveva rovinato quella della Coppa dei Campioni andando via con la macchina Real Madrid, e Milito che fa le bizze contrattuali sul campo. Ma potete vincere una volta normalmente come fanno tutti, tornando a casa sereni? No? Vabbè, ma intanto abbiamo sempre vinto, insomma, siamo campioni del mondo per club, quindi credo che sia una cosa importantissima, quindi insomma... Se poi vincere ci sono qualche polemica di mezzo, fa niente, l'importante è vincere, quindi va bene così, anzi. Ma a te piaceva, e uso il passato, Benitez? Ma guarda, no, ti dico, io credo che ogni allenatore sicuramente abbia il suo modo di allenare, abbia le sue metodiche, sicuramente sa venire dopo un Mourinho con il quale l'Inter ha vinto tutto, non era facile. E noi abbiamo nel cuore Mourinho, perché ripeto, vincere tutto, fare una stagione come quella dello scorso anno, sì, non era facile. Poi anche ieri, quando è uscito da bravo paraculo, qual è, diciamocelo, guardo la partita con la maglietta dell'Inter, dobbiamo vincere questa coppa perché siamo arrivati lì giocando nel 57, insomma, anche lì è stato bravo, eh. Ma io ripeto, devo dire, siamo campioni del mondo per sì. club, credo che sia una grandissima soddisfazione per l'Inter, quindi Benitez comunque ha fatto bene, io da interista mi auguro che chiunque sia la guida dell'Inter possa portarci certo. solo a grandi soddisfazioni. Ripeto, quando si è abituati al meglio, poi chi viene dopo purtroppo è sempre un po' penalizzato, si trova a dover fare ancora meglio del meglio. Sicuro, anche nella scherma qualche problema con i commissari tecnici c'è stato, eh? Ma guarda, purtroppo lo sport è fatto così, ci sono allenatori che poi vengono cambiati, anche comunque quando c'era Roberto Mancini con l'Inter si vinceva, poi è stato cambiato, è fatto così e forse il mondo dello sport è bello proprio anche per questo. Ma sicuro, perché ci sono comunque sicuro. Dei cambiamenti. Sicuro, ci sono dei cambiamenti, ci sono un po' di polemiche, ci sono grandi personaggi come te. Grazie Valentina. Niente, grazie a voi, è sempre forza Inter. Sì, è sempre forza Valentina Vezzali. Veniamo con te a Londra, veniamo con te a Londra e chissà dove altro in giro per il mondo. Ma guarda, io spero che ci siano sempre tante più persone che mi possano seguire e fare il tipo per me. Io ripeto, quando sono in pedana ci metto veramente l'anima, ci credo e spero di poter essere un esempio positivo per i tanti giovani che ci sono e che mi seguono. Io credo che sia una cosa molto importante, un valore importante cercare di trasmettere emozioni belle che derivano dal lavoro, da tanto sacrificio e soprattutto bisogna credere sempre ai propri sogni. Grazie, un bacio Valentina. Buon Grazie Natale. A voi, buon Natale. Buon Natale. Arrivederci. Grazie davvero a Valentina Vezzali. Allora, per conferma ufficiale definitiva, per il timbro notarile sul derby di Genova, Andrea Ferro, buonasera. Sì, buonasera, allora mettiamo questo timbro, la partita non si gioca, vi parlo dal piazzale antistante il Ferrari, è una scena assolutamente inusuale, in sottofondo qualcuno che festeggia in anticipo l'ultimo dell'anno. Dicevo, la situazione meteorologica è assolutamente eccezionale per Genova, perché in pochi minuti sono caduti parecchi fiocchi di neve al punto da indurre l'arbitro a fare quello che praticamente per tutto il pomeriggio sia il comune che soprattutto l'autorità di pubblica sicurezza non avevano avuto il coraggio di fare, ben inteso la responsabilità da parte della prefettura e della questura, perché evidentemente non c'era solo una questione relativa alla praticabilità del terreno di gioco, ma la questione era più ampia, riguardava la pubblica incolumità di certo. chi si stava recando allo stadio e soprattutto poi alla fine della partita, perché le strade qua attorno sono completamente ghiacciate, certo. per la prima volta raccontiamo un derby rinviato per neve a Genova, non è però la prima volta che lo stadio è inagibile, diciamo così, per problemi di ghiaccio. Forse ricorderete proprio questa domenica, la domenica prima di Natale, Genoa-Bari, ghiaccio sugli spalti, sì. già al mattino la partita non era magari il caso di deciderlo prima, Andrea? Un funzionario della questura sì. che non è stato chiaramente ancora fissata la data del certo. recupero di questo match, le squadre sono state fermate sui pullman mentre stavano per partire sì. dai rispettivi ritiri. Sì, non si poteva decidere un po' prima, anche prima ho parlato con diversi ascoltatori che stavano venendo a Genova, ma ce l'avessero detto stamattina, le previsioni del tempo erano piuttosto note, la situazione è quella che è, non si poteva evitare un viaggio in mezzo al ghiaccio a tanta gente? Ma assolutamente sì, il sindaco Marta Vincenti aveva detto pubblicamente, secondo me è bene non giocare questa partita, c'erano stati dei contatti con la prefettura, che poi alla fine è l'autorità di pubblica sicurezza che quindi decide, e fino all'ultimo hanno atteso l'evoluzione della situazione meteo, poi diciamo così provvidenzialmente in questa mezz'ora ha nevicato parecchio al punto da indurre poi alla fine l'arbitro ad assumersi una responsabilità che evidentemente altri non intendevano assumersi, ma credo che sia assolutamente la cosa più saggia sì. e chiaramente non sarebbe stato peraltro un derby particolarmente avvincente no, penso anch'io, penso anch'io. Grazie Andrea, buon lavoro. Grazie a voi. Copriti che fa freddo. Ci fermiamo. Assolutamente, sono intabardato come mai mi è accaduto. Ciao. Ci fermiamo un attimo, torniamo dopo questa pausa. Salve, come posso aiutarla? Ave, so Giulio Cesare, imperatore. Chiamavo per il saldo di quella fattorina 90 giorni fine mese che scadeva nel 44 avanti Cristo. Dottor Cesare, manca il visto del funzionario che ha ordinato le bighe, ma la tavola è sicuramente alla firma. Mi raccomando, entro le idi di marzo, che c'ho una scadenza. Non perdere tempo, passa a DocFlow. DocFlow, la soluzione che ti fa lavorare senza sbagliare. Scopri come su docflow.com. DocFlow, soluzioni agili per imprese agili. Papà, quando arriva il Natale? Tra poco. Dai, quando? Aspetta. Di dimmelo. Ora. Porta in tavola la magia del Natale con Coca-Cola. Partecipa al concorso e potrai vincere uno dei 5.000 kit da 12 segnaposto Coca-Cola by Trudy. Regolamento completo su coca-cola.it. Scade il 15 febbraio 2011. Attento, qui spesso c'è un autovelox. Non oggi. Ci sarà traffico in tangenziale. Non ti preoccupare, ho già preso una strada più veloce. Ho bisogno di un caffè. Fra poco c'è una stazione di servizio. Come sai tutte queste cose? Da quando guido col mio nuovo TomTom Go Live 1000 conosco sempre la strada più veloce, perché ricevo aggiornamenti sul traffico ogni 2 minuti. E in più gli avvisi sugli autovelox, le segnalazioni degli altri utenti e grazie a Google l'indirizzo di qualsiasi posto. Nuovo TomTom Go Live 1000. Conosci sempre il tuo percorso. A Padova, fino al 9 gennaio, percorsi dello sguardo, arte del Novecento e oltre. Fontana, Campigli, Sironi, Scanavino, Schifano, Warhol, Boetti, Zorio, Bar. Padova, centro culturale Altinate, fino al 9 gennaio. Info www.rampadova.it. Buon anno! Ma no! Nelle concessionarie Fiat il 2010 non è ancora finito. Eh? Sì! Puoi approfittare delle offerte last minute. Last minute? E regalarti per Natale una nuova Fiat. Fino al 31 dicembre puoi avere 1.000 euro di extra bonus last minute Fiat su tutta la gamma in pronta consegna, con il contributo dei concessionari. Ma devi correre, perché il last minute è da prendere al volo. Se no, che last minute è? Hai tempo solo fino al 31 dicembre. Ciao ciao! Ugo, ma te l'aspettavi un regalo così? Con Sky Christmas Box hai 10 canali di cinema in HD. Ti vedi, è Christmas Carol. Alice in Wonderland in HD e per la prima volta anche in 3D. Altro che Alice, questo Natale è Ugo nel Paese delle Meraviglie! Regalati Sky e Sky ti regala il cinema a soli 29 euro al mese. Abbonati entro Natale e vedi Sky a tempo di record. Chiama 02 70 70 o vai nei punti vendita. Info su sky.it. Sky, liberi di... A tempo di sport. Dunque, un paio di flash sonori, così giusto anche per aggiungere argomenti di discussione. Vi parlavo prima di Reia, che oggi ha vinto questa partita molto divertente e molto strana con l'Udinese, e poi ha anche risposto ai mugugni di spogliatoio, e Gonzales che oggi si rifiuta di entrare a 3 minuti dalla fine, e Zárate che fa le facce tutte le volte che lo levano, e Ledesma che dopo Torino ha fatto polemica, ma sei stanco in questo periodo? Ma cosa vuoi che sia stanco? Ho giocato 8 minuti. Ebbene, oggi è di Reia, si è rotto le scatole anche lui, non solo Benitez. Reia. Queste sono situazioni che vanno condannate. Qua deve intervenire la società, io faccio il mio lavoro, io faccio i cambi. La gente bisogna che si metta in testa che qualche cambio bisogna farlo. Qua di fenomeni non ce ne sono. Sono tutti giocatori importanti, di buone qualità. Finché loro avranno il concetto dell'utilità, tutti quanti, i 25, se cominciano ad avere un po' di insofferenza, è chiaro che crolla tutto. È già crollato un anno fa, non vorrei che si ripetessero queste situazioni. Capito, ragazzi? Adesso vi faccio sentire anche l'ex che fa male al Milan, Borriello, ieri sera con Dario Ricci. È stata una serata bellissima per la vittoria e soprattutto di aver capito che non siamo inferiori a nessuno, di potercela giocare con tutti, quindi di questo deve entrare un po' nella nostra testa e ripartire a gennaio e poter vincere lo scudetto. No, c'erano fischi ad un avversario, tutto qui. Io penso di non aver fatto gesti inconsulti nei confronti di nessuno, ho alzato il pugno nei confronti dei miei tifosi che mi hanno accolto fin dall'inizio veramente molto bene, quindi ero felice di aver fatto gol e li ho ringraziati, quindi tutto qua. Il messaggio di Ranieri è arrivato, alla vigilia ha voluto scuotere la squadra, no? Mi sembra che stasera avete dato la risposta in campo. Sì, non è stata una bellissima partita, se lo vogliamo dire, però siamo stati molto attenti, molto concentrati e alla fine poi, anche con un pizzico di fortuna, siamo riusciti a portare 3 punti a casa, che è quello che conta poi alla fine. Con Adriano come ti sei trovato? Alla grande. Questo era Borriello e io sto con lui perché mi sono sembrati stupidi quei fischi dei tifosi del Milan. Mi è sembrato invece... dal mio punto di vista assolutamente condivisibile Borriello che segna, anche se la sua squadra in cui è andato e venuto per tante volte, ebbene esulta. Ma com'è sta storia di non esultare contro la squadra? È un gesto di una è un gesto maleducato, secondo me, da parte dei giocatori nei confronti delle nuove società e dei nuovi tifosi. Paolo da Roma, buonasera. Sì, buonasera, mi sente? Sì. Ok, no, io volevo soltanto dire che per me Benitez tutto il plauso che può avere un vero sportivo, voglio dire, dopo mesi in quelle condizioni, dopo essere stato trattato in quel modo dalla società, sì, dopo un'annata in cui Mourinho ha vinto tutto grazie, diciamo la verità, grazie a una squadra formidabile, perché un Lito che ti fa 30 gol, Maicon sempre disponibile. Beh, merito di tutti, anche di Mourinho, che ci ha messo del suo, ha costruito la macchina perfetta, perché non stiamo a dire che ha vinto perché aveva la squadra più forte, ha vinto perché aveva una squadra molto forte che ha allenato molto bene. Secondo me è così, perché nessun allenatore vince con una squadra debole. Non tutti gli allenatori vincono con una squadra molto forte, insomma. Esatto, e la squadra debole di Benitez di quest'anno ovviamente non gli poteva permettere assolutamente di replicare, e quando l'ha avuta per due partite ha vinto due volte 3-0 contro, sì, voglio sì. dire. No, ma infatti poi si è preso tutte le responsabilità del caso, è stato trattato non bene, secondo me, da un ambiente che non ha evidentemente mai avuto fiducia in lui. Ieri sera ha fatto questa uscita, secondo me intempestiva, forse volontariamente intempestiva, ha voluto far male evidentemente. Probabilmente già lo sapeva che probabilmente sapeva che l'ultima possibilità era già passata e che l'avrebbero mandato via. Comunque questa può essere una chiave di lettura avanzata da un personaggio autorevole di cui mi fido ciecamente, come Franco Arturi prima, insomma. Gerardo Treviso, buonasera. Buonasera. Dica. Finalmente. Finalmente. Finalmente che cosa? No, finalmente. Tocca a me. Ah sì, certo. No, perché ogni volta che telefono mi metto in attesa e poi dopo scade il telefono. Volevo dire adesso. Siete tanti per fortuna. No, dico, l'Inter ha vinto quel che c'era da vincere. Sì. Benissimo. Adesso ci sono problemi che si risolvono loro. Volevo parlare, qua non si parla mai del Napoli, si parla dell'Inter, si parla di Benitez, si parla di Ranieri. Il Napoli è una squadra che lotta fino all'ultimo secondo di gioco, ha segnato gol decisivi dal 75esimo in poi. Vedi oggi, vedi contro lo Steaua a Bucarest. La lista è lunga, la lista è lunga, perché i gol a tempo scaduto stanno diventando la specialità della casa. Esatto. Dico, non sento mai una parola spesa per il Napoli, e si parla della Lazio che ha vinto, si parla del Milan che ha perso, ma vogliamo dar meriti anche a questo Napoli, ammazzare con dei giocatori che non sono costati tanti soldi. E insomma. Qualche liretta non è che cos'è costato, come cos'è costato Gargano, cos'è costato, sì, quanti sono state fatte spese folli. Beh, Cavani due soldi è costato, ma però, giustamente Cavani se li sta guadagnando, sì, ampiamente. Anche oggi, ampiamente, nove gol in campionato. Guardi, il Napoli, del Napoli parliamo volentieri spesso, ma anche perché la cronaca ce lo impone, insomma, ne abbiamo parlato ampiamente prima, sentendo anche le dichiarazioni presidenziali, insomma. Però quello che ho detto prima e che ripeto è che in questa lunga serie di successi a tempo scaduto del Napoli c'è una componente di fortuna e di stelle propizie, indubbiamente, ma c'è anche, secondo me, una questione tecnica. Sto vedendo un'orrenda, peraltro, Virtus Bologna Armani Gis Milano di basket, che peraltro è appena iniziata. Nel basket, come nel calcio, come in tutti gli sport, quelli che vincono all'ultimo secondo, che segnano all'ultimo secondo, sono in parte fortunati, in parte bravi, in parte preparati, perché io credo che il Napoli in questo momento sia una squadra che scoppia di salute, che ha la forza anche fisica di crederci fino all'ultimo istante. Poi c'è la stellina che manda il tiro di Cavani nel 7 al 97esimo, come è successo oggi e in molte occasioni precedenti. Però ripeto, c'è la fortuna, ma c'è anche una preparazione. Non è soltanto fortuna, non è soltanto caso. Bravi loro. Massimo, provincia di Milano, buonasera. Allora, io volevo dirle che sono d'accordissimo con lei per quanto riguarda il commento che ha fatto su Benitez, perché povero, è stato trattato come hanno visto tutti, e è sempre stato calmo e buono, e sì, ha sbroccato in questa situazione qua, ma sì, sinceramente non l'ho trovato opportuno. Ma si vede che covava da tempo un po' di rancore. Mi viene quasi il sospetto che fosse un'uscita calcolata. Mi sto convincendo che sapesse che il suo destino era segnato, e abbia detto: benissimo, volevate questa coppa, ve la do e poi ve la faccio e poi ve la sporco. E così ha fatto, no? Sì, assolutamente. Poi vabbè, gli interisti si vede che per anni non hanno vinto, adesso che tutto un tratto hanno iniziato a collezionare titoli, insomma, non sono abituati, dunque non sanno reagire nel modo più appropriato. Comunque vabbè, sì. Questo è un commento da tifoso. Sì. Anche per quanto riguarda l'esultanza di Borriello, benché mi trovassi a tifare appunto per la squadra opposta, sono d'accordissimo, perché non esultare per la squadra per cui si gioca... A me dà un fastidio pazzesco, mi sembra una cosa di un'ipocrisia mostruosa. Esatto, soprattutto perché si è pagati da quella società e ci sono dei tifosi che ti supportano. Bravissimo. Dunque, dal momento che segni, senza esagerare, senza far gesti verso i poteri opposti. Bravissimo. Invece, per quanto riguarda un commento che ha fatto sul valore del nostro campionato, quando ha detto che secondo lei non è detto che un 3-2 pirotecnico sia più divertente di uno 0-0, di un 1-0. No, più divertente lo è di sicuro, sto dicendo che non è indice di qualità. Può darsi, ok, per esempio io ero allo stadio ieri a vedere Milan-Roma e vabbè, a prescindere che la mia squadra ha perso, è stata una partita brutta, perché una squadra come la Roma, che si dice che punta lo scudetto, è venuta a Milano per non perdere, tenendo sempre 8-9 uomini dietro la palla. Ora è giusto mantenere degli equilibri, la giusta distanza tra i reparti, non sbilanciarsi, però negli altri paesi, quali Inghilterra, Spagna e purtroppo anche Germania, adesso si cerca proprio di giocare, di creare gioco, di creare belle azioni. Però vede, dal punto di vista, la tattica non è bella da vedere, però è qualcosa che ti fa vincere. In Italia abbiamo una filosofia esasperata del risultato e non a caso abbiamo gli allenatori più preparati del mondo dal punto di vista tattico, secondo me. E questi spettacoli che vediamo certamente non sono appassionanti, tutt'altro, dal punto di vista strettamente estetico, però si sposano con la filosofia del risultato, che da noi è pressoché imprescindibile. Quindi è difficile parlare di qualità, perché possiamo parlare di estetica, possiamo parlare di tattica. Spesso le partite del campionato italiano fanno schifo, perché è questo dal punto di vista estetico, però sono preparati in maniera magistrale dal punto di vista tattico. Io la ringrazio, Massimo, ci fermiamo un attimo per il traffico, poi torniamo insieme. Strade in diretta. Alle porte di Milano code per un incidente sull'autosole tra Melegnano e la tangenziale ovest in direzione Milano. Sulla 10 Genova-Savona si rallenta per traffico intenso in direzione di Savona tra Genova Aeroporto e Genova Pegli. In Toscana rimane chiuso per il ghiaccio il raccordo Firenze-Siena tra Bargino e Firenze Certosa in direzione di Firenze, mentre è stato riaperto in direzione di Siena. Nevica al confine con la Francia sia sulla 5 Torino-Aosta che sulla 32 Torino-Bardonecchia. In Liguria nevischio sulla 7 Milano-Genova e sulla 12 Genova-Livorno. Nevica sulla 15 della Cisa tra Fornovo e Pontremoli e in questo tratto sono obbligatorie le catene o i pneumatici da neve. E invece nel Lazio piogge e lungo la 3 Salerno-Reggio Calabria il vento è forte tra Bagnara Calabra e Scilla. Si sconsiglia il transito ai veicoli telonati, furgonati e caravan. Per il momento è tutto, il prossimo aggiornamento tra mezz'ora. A tempo di sport. Per la cronaca, 26-19 tra Milano e Bologna, mentre mancano circa 4 minuti alla fine all'intervallo, dalle 8:30 alle 9 parliamo di basket e vi raccontiamo tutto dai campi. Tanto rugby, Giacomo Bagnasco, buonasera. Buonasera Carlo, buonasera. Giacomo Bagnasco, noto tifoso genuano, derby sospeso, ve lo ricordo, non si gioca per neve Sampdoria-Genoa, rinviata a data da destinarsi non ancora stabilita. Nel rugby si è giocato, era meglio forse un po' di neve anche lì per evitare un paio di brutte figure, no? Ah, guarda Carlo, si è giocato non dappertutto e ti racconterò anche il perché. Comunque le brutte figure purtroppo sono arrivate. In Heineken Cup gli Aironi sono incappati nella voglia di rivincita del Biarritz, vice campioni europei, battuti a Viadana inaspettatamente la settimana scorsa. Partita di rivincita a Biarritz con i francesi che hanno vinto nettamente 34-3. Più deludente in fondo il 38-15 subito dal Benetton in casa, opera degli Scarlets inglesi, che erano stati battuti in Celtic League, ma invece in Heineken Cup Scarlets decisamente superiori, e Benetton che ha giocato una brutta partita. In Challenge Cup altre sconfitte nette, nettissime: la Genoa ha battuto il Fenice Zeta Rovigo 61-11, i Crociati Parma sono stati battuti dagli inglesi del Leeds 46-6. Sul piano delle brutte figure però la peggiore l'ha fatta il Petrarca, che ha perso in Spagna. Ti ricorderai Carlo, avevamo detto almeno ci sono le spagnole che ci salvano la faccia, li battiamo. Bollettino di guerra, Giacomo. Sembra il bollettino di guerra quando ci sono le coppe europee. A me, guarda, è così questa sconfitta netta dopo aver finito il primo tempo in vantaggio 11-10. Il Petrarca ha perso 37-16 da El Salvador. E poi c'è questo fatto, in questo caso avvilente, che riguarda l'ultima partita che era in programma, quella tra i Cavalieri Prato e il Bayonne, squadra francese. Non si è giocato ieri a Prato perché c'era la neve. Appuntamento oggi a mezzogiorno a Livorno. Si presenta l'arbitro, si presentano i giocatori toscani, con un'ora di ritardo arrivano i dirigenti francesi a dire che loro non potevano giocare, che chiedevano di giocare il giorno dopo. Adducendo come motivo che si erano perse nel viaggio le scarpe di alcuni giocatori, sì. Non erano arrivati i bagagli, eccetera. Sì. Io credo che nessun altro sport una scusa del genere sarebbe stata accettata, soprattutto senza avvertire prima, ma così è stato invece da l'ERC, che è l'organizzazione. Non depone a favore della credibilità di tornei di questo tipo, perché è una cosa francamente inaccettabile. Io credo sembra veramente il torneo dell'oratorio, forse neanche all'oratorio si dà partita persa regolare in qualunque sport. Questo a livello di competizioni internazionali mi sembra francamente ridicolo. Grazie Giacomo, sono di corsa, buon Natale. Grazie a Giacomo Bagnasco. Filippo Maria Ricci, buonasera. Buonasera. Io ho subito una domanda per te. C'è un ascoltatore, ecco, che chiede: può chiedere a Filippo Maria Ricci quanto vale Pedro? 50 milioni al meno. Filippo Maria Ricci, oltre che nostro amico giornalista per la Gazzetta, eccetera, anche procuratore di Pedro, quindi adesso ce lo dice. No, Pedro non ha prezzo, ha una clausola di rescissione della quale al momento non mi ricordo l'entità, mi sembra che siano 80 milioni, sì. Ma in realtà è il simbolo di questo Barcellona, di come si costruiscono in casa giocatori che penso in mille altre realtà sarebbero solo giocatori mediocri e li diventano dei fenomeni. Pedro era uno che solo 3 anni fa giocava in Serie C2, è venuto fuori, aveva già una certa età, perché è venuto fuori che aveva 22 anni, sì. Non è come magari i Thiago, i Jonathan o i Bojan che hanno 18-19 anni, era già maturo, aveva perso l'ultimo treno, Guardiola lo ha recuperato e lo ha trasformato in un giocatore decisivo, campione del mondo, importante per la Spagna e importante, certo, per il Barcellona. Questo vuol dire avere una squadra su cui, dentro la quale mettere i giocatori e non viceversa. Non prendere un pugno di giocatori e buttarli lì. È uno delle grandi dei grandi temi, ecco, cosa potrebbe fare Pedro fuori dal Barcellona? Io penso onestamente che secondo me non so quanto potrebbe fare. Però al Barcellona è perfetto, ieri sera ha fatto una partita strepitosa ed è un giocatore nel quale gli stessi spagnoli non credevano, poi al mondiale gli ha fatto cambiare idea. È una persona d'oro, come ha detto anche Guardiola non più di 3-4 giorni fa, ragazzo di grandissima umiltà, il papà ha una pompa di benzina alle Canarie e non viene neanche a vedere le partite perché la pompa di benzina deve andare avanti, non deve chiudere. Umiltà assoluta ed è un super giocatore, almeno visto così. Senti Filippo, ti devo chiedere un piacere. Io sono un po' stanco, un po' di mal di gola. Potresti rispondere agli ultimi due ascoltatori, Bruno dalla provincia di Milano e Giovanni da Milano? Guarda che parlano piacere. Di Benitez. Bruno, buonasera. Buonasera. Dica. Io lo parlo di Benitez, sì. Che secondo me Benitez ha fatto bene a fare quello che ha fatto, sì. Che a mio avviso si era accorto benissimo che questa sarebbe stata una delle sue ultime apparizioni sulla panchina dell'Inter e quindi ha voluto levarsi i sassolini che aveva nella scarpa e che aveva da molto tempo nella scarpa, e siccome è un signore non si era mai tirato fuori, fino a quando si è accorto invece che l'ambiente in cui purtroppo si era venuto a trovare è un ambiente dove di signori morati compreso non ce ne sono. Questo è Bruno, Giovanni da Milano e poi Filippo Mariarici che risponde. Sì, salve gente, sono salve. Giovanni. Quello che volevo dire, indipendentemente dalle motivazioni per cui Benitez è andato via, ma il vero problema, il vero errore è stato lasciare andare via Mourinho. A questi livelli, se tu hai deciso che quello è l'allenatore della tua vita, allora la strategia societaria dovrebbe essere più simile a quella del Manchester United. Lo fai diventare socio, perché altrimenti siamo sempre qui. Ogni due anni cambiamo l'allenatore. È chiaro che la po' meno di due, perché sono passati non due mesi, ma quattro. Comunque, guardi, mi sembrano temi appropriati per sollecitare l'intervento a chiudere di Filippo Maria Ricci. Allora, brevemente parto dalla seconda domanda. E lì però la volontà secondo me c'era di farlo diventare socio Mourinho, il problema è che il socio ha rifiutato la tessera e se n'è andato via, perché voglio dire, non è neanche tornato con la squadra a festeggiare la Champions, era già a dormire dove poi ha comprato casa, o anzi dove è in affitto, qua a Madrid, e si era già accordato per andarsene via. In questo caso quindi non vedo colpe da parte della società. Sì. E difendo di nuovo, per collegarmi alla prima domanda, dice che non ci sono grandi signori all'Inter, su questo non sono tanto d'accordo, secondo me Moratti in realtà non si è comportato così male, il problema era che sostituire Mourinho è complicatissimo. E secondo me Benitez è entrato nello spogliatoio non con l'umiltà necessaria, nel senso che questo comunque è uno spogliatoio di gente che ha vinto tanto o quasi tutto, di grande peso, e si è trovato in una situazione per cui lui pensava, aveva rifiutato la Juventus perché pensava che non ci fossero soldi da spendere, perché questo in realtà Benitez era stato molto vicino alla Juventus, si è trovato all'Inter, non gli hanno comprato nessuno e da lì sono cominciati i problemi. Lui aspettava delle cose, i giocatori ne aspettavano delle altre, si sono trovati in difficoltà a livello di rapporti e questa è la situazione. Vedersi e dirsi addio. Io invece ti dico buon Natale, Filippo. Grazie. Buon Natale anche a voi. Alla prossima, grazie Filippo Maria Ricci. Ci sentiamo con a Tempo di Sport della domenica, quando riprende il campionato. Palla spicchi venerdì c'è, palla spicchi c'è il venerdì successivo, mentre nel weekend ci riposiamo attendendo la ripresa del campionato. Quanto alla palla spicchi invece ci sentiamo dalle 8:30 alle 9:00. A più tardi.